All'House of Bach si tiene una cena molto speciale, dove si discute delle prossime iniziative e si parla con i nuovi amici che ci vengono a trovare. Da questa tavola passa tutta la buona energia della città. Benvenuti anche a voi alla cena del regino. Ragazzi, bentornati alla cena dei regini, ma l'applauso va a ricordo di Mimmo Martino, un grande artista della Calabria che ha cantato delle nostre radici, un importante compositore che è scomparso in questi giorni, e quindi un grande applauso in ricordo di Mimmo Martino. Ragazzi, che altro dire? Andiamo avanti comunque col programma, alla quale lui stesso aveva chiesto di partecipare. Stiamo organizzando questa cosa, quindi lo portiamo un po' con noi anche in questo percorso artistico che a lui piaceva così tanto. Andiamo avanti, anche se è sempre difficile, parlando di quello che è successo all'House in questa settimana. Ragazzi, una settimana abbastanza tranquilla, ma ne abbiamo viste anche di belle con la nostra jam session. Abbiamo dato spazio per una sera a tutti questi artisti che sono di qua a esibirsi al nostro palco aperto a tutti, quindi veramente ogni stile, ogni genere, si sono alternati chitarra, batteria, basso e via dicendo. C'è stata una serata abbastanza bella, densa di musica, ricca di emozioni musicali, un video che rimarrà straordinario, che ancora in fase di montaggio perché è un po' elaborato, però comunque la jam session si afferma come il punto di ritrovo importante per gli artisti che vogliono ancora improvvisarsi e comunque trovare uno spazio libero in cui poter suonare liberamente. E poi, a proposito di artisti, questo sabato, il 7, verranno i 17 Friday a fare il loro concerto qui a Reggio Calabria, qui all'House of Bach, la sede della Giunta degli Artisti. I ragazzi verranno da Palmi scatenati, già ne hanno parlato tutti i giornali, hanno introdotto la notizia, è stato molto bello anche questo. E porteranno queste atmosfere gothic metal, un'atmosfera particolare, molto intensa, molto succosa, diciamo così, e quindi è un concerto assolutamente da non perdere. Sono strepitosi anche da un punto di vista musicale, di volumi, di fisicità, di presenza, quindi comunque da non perdere assolutamente. Tutto questo anche con la Gilda degli Artisti, grande associazione, l'Onlus, che permette di organizzare tutto questo, quindi uno spazio, un'istituzione che, oltre a garantire l'organizzazione dei concerti, garantisce anche una copertura legale per gli artisti che si vogliono gildare, delle agevolazioni per chi si associa e quindi diventa gildato da Gilda degli Artisti. Ragazzi, è facilissimo, online basta compilare un modulo e sei dentro anche tu. E poi, ragazzi, a proposito di coinvolgimento, se sei gildato non puoi non mancare alla cena dei regini, puoi proporti come commensale scrivendo cena@bach.it e proporre la tua storia oppure la tua partecipazione a questa tavola per coinvolgerti e per condividere qualcosa di cui vuoi parlare in trasmissione, oppure semplicemente portare qualcosa da mangiare e mangiarlo qui tutti assieme. È fantastico, anche la tosse passa, e noi continuiamo con questa puntata dedicata alle cure. Ragazzi, le cure, cosa servono, cosa sono, lo scopriamo tra poco dopo un piccolo spazio musicale. Now I'm ready to feel alive. Ragazzi, bentornati alla cena dei regini, l'angolo delle notizie dalla strada. Ma prima www.back.it, clicca cena dei regini per seguire questa puntata, seguirla tutta o ascoltare quelle precedenti. Sul nuovo sito trovi tutte le tre stagioni da poter cliccare e seguire e rivedere assieme. Oppure scrivi a cena@back.it per commentare ogni cosa di questo blocco. Ti danno fastidio queste persone? Non li vuoi più vedere? Oppure sì, li vuoi a casa tua? Li vuoi con te per Natale? Allora scrivi. Per fortuna Natale è passato, quindi fallo senza problemi. Ma parliamo dell'angolo delle notizie alla strada, quelle più strane, quelle più curiose. Però è una moda, a volte le notizie sono strane, a volte anche un po' ci fanno riflettere, un po' tristi. Ad esempio, la nuova moda dopo il neck nominate di cui abbiamo parlato nella scorsa stagione, una nuova moda sta impazzando sul web, altrettanto particolare, pericoloso, il punch for punch. Delle vere e proprie serate simili al Fight Club un pochettino, dove la gente va e si mena, cioè si mena a dare e ricevere pugni. Sono felice. Praticamente. E sì, ragazzi, siamo felici, è incredibile. Loro già ci stanno pensando. Ovviamente faranno tutto questo davanti alle telecamere, perché la violenza fa visualizzazioni. E quindi è incredibile il successo che stanno avendo queste iniziative. È fantastico, è drammatico, è fantastico pensare che comunque le persone abbiano voglia di incontrarsi in giro, di organizzare queste feste solo per bere e picchiare. Ovviamente già si registrano drammatici, veramente drammatici incidenti di persone che comunque hanno avuto svariati problemi durante queste piccole, diciamo, risse più o meno organizzate del punch for punch. Però pensate, queste mode internettiane, perché? Perché, cioè, ha questo successo secondo te, Federico? Ma immagina di dover stare tutto il tempo con una persona come Federico davanti, o più come lui. Cioè, prima o poi hai voglia proprio di dargli un pugno, allora perché non farlo? Soprattutto guardando la sua faccia, dici: ma cosa possiamo fare a sto povero ragazzo? Se troviamo due minuti, cannonate. Basta anche basta un attimo. Basta un attimo, e già qua stai scatenando anche qui. No, ragazzi, calma, perché non siamo in Inghilterra, va tutto bene. Qua regna la pace, quindi è tutto a posto. Però basta divertirci. Niente, e si attiva la scintilla della violenza. Invece, quando la tecnologia fa anche delle cose buone, o almeno può essere molto utile, è un'app che si chiama Secure Woman. A proposito di violenza però combattuta, pensate, questa app installata sul cellulare di una qualsiasi donna, insomma di un su un qualsiasi cellulare, permette di attivare un servizio di controllo, per cui in qualsiasi momento, in caso di bisogno, la ragazza, ad esempio, basta che scuote il cellulare e l'applicazione manda un messaggio di soccorso tramite il sistema. Quindi può essere comunque utile per delle ragazze che possono essere in difficoltà, basta un gesto e possono chiedere l'aiuto, quindi comunque può essere un servizio importante. Secure Woman è un'app gratuita, anche se bisogna pagare un piccolo contributo per attivare il servizio 24 ore su 24. Però pensa tu, sei nei guai, ta-ta, e comunque puoi avere questa... Ma c'era questa... già una cosa del genere. Ad Andrea sarebbe molto utilissimo, ad esempio. Molto utilissimo, non si può sentire. Perché c'è, può essere per tu. Ma che gioco è? No, non è un gioco, è vero, è vero. Penso ci sia... Ma si fa proprio un punico lì? No, quello era quello di prima, sì. Comunque, erano serate in cui si danno i pugni. Qui ma è una... Ma non mi fa male. Una... sì. Purtroppo sì. Però pensa, questa applicazione, se tu sei in pericolo, Andrea, sei in pericolo, sei per la strada, ti senti male, qualsiasi cosa, eccetera, avere la possibilità, scuotendo il cellulare, di chiamare i soccorsi. Ma io il cellulare non sono capace a usarlo. E quindi comunque risolviamo così. Però se potessi sarebbe utile, cioè metti un allarme qualsiasi. Un allarme, lo scuoti e arriva... Bella cosa, bella, vedi, da donna giustamente lei apprezza, e anche tu dici c'è già questa una cosa del genere. Mi sembra che ci fosse già da prima. Questa, il lancio di questa applicazione è il 31 gennaio, quindi comunque recente 2015. Poi c'erano dei servizi analoghi a questo, però comunque è carino il fatto che comunque c'è questa ulteriore possibilità. Quindi se sono 5 secondi dallo scuotimento a far partire il segnale in cui si può eventualmente... Non è quella che esce adesso o è sempre stato? È già attivo, dal 31 gennaio è attivo, quindi comunque da pochi giorni. E anche col cellulare di mia figlia si può fare, no? Penso che... È un'app, la scarichi e la puoi mettere. E ora non ce ne parlo. Vedi, può essere sempre utile a tutti. Altra cosa che può interessare anche a tua figlia, si chiama Echo Print. Se non me lo scrivi non me lo ricordo. La nostra Andreina è sempre alla grande, sempre informatissima. Echo Print cos'è? È una stampante piccolissima che tu colleghi al cellulare e dal cellulare puoi stampare le fotografie tu subito, come le vecchie Polaroid, te le ricordi? Ah, è quella cosa, è sempre una cover. Sì. Esatto, è sempre una cover per il cellulare. Tu scatti la foto ed esce la foto stampata da sotto e la foto fisica, diciamo, pronta. Bellissimo. Come le vecchie Polaroid. Foto pronta in 30 secondi, quindi la velocità più o meno delle vecchie Polaroid, però ragazzi aggiunge un tocco che in molti apprezzeranno, questo tocco realistico agli scatti permette di aggiungere un effetto che è molto simile alle immagini magiche in movimento descritti da J.K. Rowling nella saga di Harry Potter, quindi dà quell'effetto pseudo tridimensionale alle immagini delle immagini in movimento. Ma sei pazzo? Invece no, non lo spiega. È fantastico! Visto? Solo il meglio delle notizie alle notizie dalla strada. Quindi che fai? Tu ti scatti la foto, ti esce la foto così e invece di essere la foto ferma magari puoi fare un gesto amichevole a chi ti guarda da casa. E quindi no. Ragazzi, andiamo avanti perché questa qua è rischia di essere una bella invenzione, perché comunque ti stampi la Polaroid e in più hai anche questo effetto magico. Ah, voglio avere l'Andreina che fa così nella Polaroid. Andreina che fa la piruetta nella Polaroid, questa cosa dobbiamo anche sperimentare. Ragazzi, la tecnologia spesso aggiunge molto, quindi al di là delle invenzioni che possono essere più simpatiche, al di là di quello che può essere comunque un'aggiunzione a delle cose già fatte, ci sono delle piccole rivoluzioni. Una potrebbe chiamarsi Helio. Helio, chi non lo conosce? Helio è? Quello che scrive adesso. Oppure? Non ho idea. Conferma. Helio è quello del storia. Del? Il cantante Elio del Storia Desert. Ah, Elio Storia, sì. No, invece no, non c'entra, non c'è, infatti non c'entra nulla, tranquilla Andreina. Elio è un'auto che fa 37 km con un litro di benzina e costa anche la mobilità, ricordo, questo mi e costa meno di 6.000 euro, motivo per cui non la vedrete mai, quindi perché parlando perché voglio... no scherzo. Sembra che questo progetto possa avere il benestare, quindi possa arrivare sul mercato. Helio è un'auto a tre ruote, un design minimale per cui è molto leggera e quindi consuma solo 37 km con un litro di benzina, quindi veramente pochissimo. Monoposto con bagagliaio, però comunque permette, capisci, di avere una, alla fine il costo di un motorino, diciamo così. Però hai una macchinetta che è funzionale, discretamente carina, un design meglio di quella elettrica, futuribile perché ha le ruote a tre, quindi è poco più piccola di quelle elettriche considerando le ruote. Se fosse almeno biposto sarebbe più utile. Ma io penso che ci arriveranno anche a quello, perché già due posti di fotti, quindi sta avendo successo, quindi comunque può funzionare. Bisogna vedere poi l'upgrade delle tecnologie, quindi questa potrebbe essere una cosa che vedremo nel mercato, quindi avremo questa auto a meno di 6.000 euro finalmente, però va ancora a benzina, quindi anche le multinazionali sono contente, quindi permetteranno di avere questo vantaggio. E uno che ne potrebbe veramente approfittare è un caso che arriva da Detroit, dove si chiama James, e James è un operaio che per arrivare in fabbrica percorre 30 km a piedi ogni giorno. Si fa 30 km da casa alla fabbrica ogni giorno. E tu dirai, costui è un... È un 30 del ritorno o 30 da andare e 30 del ritorno? 30 del ritorno. E tu penserai è un atleta. Un pazzo. E invece? E invece no, perché fa 30 km per gasarsi si beve queste bevande, dice che il suo trucco, diciamo così, è bere queste bibite energetiche gasate, e quindi alla fine riacquisisce tutto l'eccesso che va a smaltire con questi 30 km. Ora ti dico, la Monster fa bene. Ma te sei fissato? Fa bene Monster. La Monster. Però c'è una cosa da dire, che il tizio ha 56 anni e quindi comunque se li porta bene 30 km in andata e ritorno. Però tu dici, quello che potrebbe, no, perché lui ha questa abitudine di trincare queste bevande energetiche gassate. Grande preoccupazione da parte degli amici, che dicono, a questo punto prenditi la macchina e fai prima. Ma lui invece dice no, perché questa è la sua abitudine quotidiana. Lui vuole bere bibite gassate e farsi 30 km a piedi. Ma questo sono io, ragazzi. Ma chi ha detto questa cosa? E qui abbiamo James. Non fosse che James è di colore. Sono dei dettagli. James italianizzato. Il nostro James italiano. Partita tra l'altro una raccolta fondi su internet per permettere a James di acquistare un'auto. Adesso perché non gli ho regalato già 200 euro? Perché le donerai alla gilda degli artisti, spero, è ovvio, questo è sottintesa. Voglio dire, ognuno ti racconta. Io gli mando a casa 200 muro. Euro di mossa. Ah, ecco, allora vabbè. E comunque tu puoi contribuire o a pagargli l'auto o a pagargli da bere. Ma assolutamente da bere, perché se lo merita. Vabbè, con te le lattine arriveranno vuote a casa sua, quindi non so. Vabbè. Qualcuno. Già cerco. Ragazzi, quindi 30 km per arrivare all'azienda. Quanto ci tiene questo nostro lavoro? Tantissimo. Ma c'è un'azienda che tiene ancora di più ai propri dipendenti. Si chiama Epicenter e sta a Stoccolma. E tiene talmente tanto alla rapidità, all'accesso che questi agenti, questi dipendenti hanno in fabbrica. Perché dice piazzare i pin, le chiavi, eccetera? Mettiamo un microchip nella mano dei dipendenti, che così si possono muovere liberamente nell'azienda. E loro l'hanno fatto, l'hanno impiantato, è grande quanto un chicco di riso tra l'indice e il pollice, quindi lo impiantano così. Allora il dipendente che fa, vuoi un caffè alla macchina del caffè? Fai una passata così e ti fai il caffè. Vuoi aperta la porta? E si apre la porta, pensa tu. È una cosa molto grande fratello, però comunque sta funzionando. Tra 2 anni di USEX praticamente. Ovviamente. Bisogna la macchinetta del caffè. Bisogna... No, non tocchiamo sto tasto, Andrea. Non tocchiamo sto tasto perché c'è la macchinetta del caffè in riparazione, quindi adesso vorrei fare. Ma è ancora buona? Anch'io. Ma è fantastico, perché stanno uscendo un sacco di cose spettacolari che io sognavo da bambino, tipo i tracci meccanici. I microchip nelle mani, adesso che altro sogniamo? Gli scandali da retina ci sono già, sì. Ci stiamo lavorando. Fantastico. Che bello. E i gatti che conquisteranno. Ragazzi. I gatti che conquisteranno il mondo e siamo a posto. Gatti meccanici. Ovviamente. Quindi, se tu vuoi il tuo personale microchip da impiantarti nella mano, devi chiamare la Bionifiken. La Bionifiken. Attenzione. Attenzione. La Bionifiken. È questa società svedese. Bionifiken. Che cosa ride? Non mi... Perché penso subito ai doppi sensi, capito? Sì, io un soggetto. Un soggetto un po' particolare. Ragazzi, gli svedesi sono avanti. Loro hanno un marketing diverso. La Bionifiken si preoccupa di prendere la tua mano e portarla a un livello superiore. E quindi lo puoi fare rivolgendoti a loro, perché gli svedesi fanno tutto, fanno i tavoli, fanno le cose, la Bionifiken. Rivolgiti tranquillamente, tra l'altro già interessantissimi anche Google e Facebook per questo chip, quindi quanto prima, secondo me. La Bionifiken ti potenzia. Saremo tutti Attenzione. Nelle mani del Bionifiken, che non fosse già così. Ma ragazzi, un ultimo caso per questo angolo delle notizie, molto particolare, bollino rosso, perché comunque questa è l'ultima notizia, quella un po' pepata, un po' così, a proposito di quello che dicevamo prima, mani che fanno cose, che vedono cose, che dicono nulla. Lei si chiama Kendra, era annoiata e cosa ha fatto? secondo voi? Una che si chiama Kendra. Si è mangiata il piede destro. Oppure? Oppure ha fatto il world record di gangbang. Wow! Che cosa c'entrava? Il nome sembrava una cosa, capito? Quasi, quasi, era annoiata e ha girato un film hard nella biblioteca della scuola. Anch'io mi emoziono a queste opere d'arte. Ma la cosa bella è che la biblioteca era piena e la gente non se ne è accorta. Quindi io sono più turbato di quelli là che c'hanno sta tizia davanti, che apre il cellulare, apre il computer e si mette a fare queste pose sexy, queste qua, con tutti i professori dietro che non capiscono cosa stia facendo. Lei, tristissima, è stata denunciata per aver fatto questa diciamo bravata, così si è un attimo spogliata, si è mostrata, ha giocato un pochettino con le sue forme e dice: era annoiata e non è quello che voglio fare nella vita. Perché cosa farà nella vita Kendra? Sta studiando per un corso di scienze familiari. Quindi presto, cioè ci sarà madre, padre, figlio e Kendra a gestire la situazione. Sperando che lasci la webcam a casa. Ragazzi, le notizie dalla strada, mi raccomando. Un film che si potrebbe fare adesso, in questo momento. Terminator con Kendra. Sì. Non oso immaginare. Kendra dalla biblioteca con amore. 00 tette. Basta. Già qualche nome molto interessante, potrebbero prendere spunto qualche casa di produzione abbastanza nota. Sai. Ragazzi, notizie dalla strada, commenta da channel@bacco.it. Noi torniamo dopo un piccolo spazio musicale, www.bacco.it, per seguire questa puntata e tutte le altre puntate della Cena Regini. A tra poco. Ragazzi, bentornati alla cena dei regini, cena che c'è il Bacca.it, commenta questa classifica assieme a noi e il Bacca.it per seguire tutte le puntate della cena dei regini e anche scoprire come essere tu ospite a questa cena, come commensale o come ospite. Se vuoi parlare di qualcosa, se sei un artista, vuoi presentare le tue idee, qua lo puoi fare. Passiamo alla classifica, tema della serata, tema della puntata, la cura, la grande cura. Qual è la cura per un momento? Come dire, di intimità, un momento a due molto particolare, la musica può essere un grande risultato, cioè può essere una cura, un aiuto anche in questi momenti a due, anche per la tosse devo trovare una cura. Intanto partiamo dalla classifica di quelle che possono essere definite le 20 colonne sonore ideali per un momento a due, per stare assieme, per ritrovarsi, per non dico necessariamente un'intimità particolare, ma comunque semplicemente un momento, ecco, di complicità. È stata stilata dal dottor Wollensiefen, dottor Mullensiefen, il dottor Mullensiefen. Diverse cose, grazie alla complicità di Spotify, che ha analizzato, ha intervistato 2000 persone suddivisa perfettamente tra uomini e donne, quindi grande possibilità di sbagliare. Iniziamo dal numero 20, ragazzi, alla ventesima posizione. Se partiamo subito con un paio di posizioni, sono abbastanza scioccanti o comunque particolari. Alla numero 20 iniziamo subito alla grande. Tu sei lì che stai con la tua fidanzata, comunque con la tua complice, diciamo, il tuo filarino, diciamo così. Quale modo migliore di presentarsi a lei se non così? La colonna sonora di Guerre Stellari è uno dei pezzi forti del rapporto a due, dei momenti di complicità. Sì, perché gli fai capire che c'è quella nobiltà, no? C'è quella forza dentro di te. E questa è la marcia imperiale. Posso dal lato oscuro, abbiamo anche gli scontri. Vedi. Grazie. Sì, simpatia del 2020. Tranquillo. E quindi comunque, perché cioè questa idea di vigore, di forza, di evidentemente conquista, perché è alla numero 20, però cioè il fatto che sia là dentro Guerre Stellari, che non è che contiene tutte queste scene di quello che succede alla fine, uno viene partorito da non si sa quale entità, un altro stacca una mano all'altro, poi cose, cioè non è che c'è tutto, però non è la Bibbia questo. Quelle stellari, no, quello è un altro fantasy. Ma questo è il discorso, che comunque Guerre Stellari entra talmente nell'atmosfera, nell'idea dello stare assieme, che perne anche questi momenti, il vigore, la forza che è dentro di te. Alla numero 19, vabbè, una canzone che è più riconducibile al tema, è Sex Bomb di Tom Jones. Quindi più swing, più così, più snella, eccetera. Ma la numero 18, e qui io mi porrei delle domande, Mamma Mia degli ABBA. Per fare cosa? Non ho idea. Magari, che so, stai davanti a una donna nel momento intimo, tu rispogli e quella dice Mamma Mia. Un cazzo. Rimane scioccata. Vabbè, la risposta può essere anche quella. Ma sono fuori da qui. Non ce la dobbiamo sentire. Senti, le battute di merda sono le mie fino a prova. Ragazzi, non devi dire queste cose. Però comunque, ragazzi, dico, mamma mia, tu dici, lo stupore, mamma mia. Mamma mia. Dico, giustamente. Alla numero 17, Boys to Men, I'll Make Love to You. perché la devi informare al Mac Love to You. Quindi comunque è proprio importante. Un titolo che giustamente è split, ragazzo, è quella l'idea. Donna Summer, la numero 16, I Feel Love, quindi ci informa che già la cosa è fatta. I Feel Love, Donna Summer, è la, numero, la canzone numero 16 nella classifica delle colonne sonore ideali per i momenti a due. Alla numero 15, anche qui io mi pongo delle domande, perché alla numero 15 ci dovrebbe essere l'intera colonna sonora di Grease. Oddio. Cioè, per un nostalgico che è un momento di... Perché non hai una colonna sonora molto, come dire, limonabile, diciamo così. Cioè, è una cosa un po' movimentata, quindi o ti adegui a certi ritmi, momenti acrobatici, forse, non lo so. Ma però comunque, intera colonna sonora di Grease, quindi è anche un certo durata, voglio dire. Sì, ma... richiede anche un pochettino. Quanto saranno di 3 ore? Ma io penso che almeno 40 minuti sì, perché comunque era una canzone di una certa certezza, lunghezza, come direbbe lui giustamente. Alla numero la canzone successiva, alla, aspetta che ho perso qua giustamente anche il segno, perché mi fanno pensare a cose. Alla numero 14, bellissima Andrea, Tchaikovsky con l'Ouverture 18-22, che è questa qua, tu sai come fa, è quella canzone fa. Eccola. Ti avvicini. Cioè questa. Cioè è un tema epico comunque. Quando ho una certa leggiata, ti avvicini a lei, mi tocchi la pancia. Non è che mi non c'è il fone perché. Ti guarda schifato. Tipo. Che cazzo fai? Alzati i pantaloni, tipo. Cioè, e la gente sfrutta questa come. Sarebbe abbastanza umiliante. Mi sa di però... tipo vecchio militare in pensione che cerca che cerca l'attenzione disperatamente sotto il divano. Al numero 13 Rodgers e Meister in Sounds of Music. Al numero 12 invece Kings of Leon con la con conosciutissima Sex on Fire. E lui la conosce. Si era su chitarrino. E perché la canzone la conosce? Perché quando è stato frenzonato lui ci piangeva su sta canzone. Io e questa già e questa già comunque è più avanti. Cioè c'è un ritmo in più, c'è una cosa in più, quindi dà un'emotività in più alla cosa. Però è anche abbastanza recente, perché io ci ho fatto il 100% su chitarrino. Ragazzi, alla numero 11 un pezzo veramente direi ad hoc, I don't wanna miss a thing, I don't wanna miss a thing di Aerosmith. Però questo è per gli incontri proprio mielosi, spassionati, quelli cioè non è una cosa, capisci, fisica, cioè non è una cosa carnale, è più per l'incontro tipo quello meloso, melenso. Ma io quando l'ascolto penso a Armageddon e comincio a piangere per Armageddon, non per altro. Cioè non me ne frega nient'altro, io penso ad Armageddon. Era un film tristissimo per me, l'ho visto da bambino. Ogni volta che gli americani fanno un film sui disastri, ogni volta che fanno un film di disastri distruggono Parigi, perché loro, io l'ho visto, cazzo. Distruggono Parigi perché la libertà. New, cioè, York. Hanno fatto Armageddon, cadrà una storia, chissà dove, Parigi, true. Hanno fatto Independence Day, gli alieni c'erano con noi, uccidiamo una città a caso, Parigi, broom. E poi si lamenta. Oppure è stato la libertà del concordato del che però è sempre francese, quindi ci stanno trasmettendo qualcosa, evidentemente la loro sottocultura alla Michael Bay. Però I don't wanna miss a thing, comunque è per questo appuntamento un po' più melanconico, comunque quell'appuntamento che vuole trasmettere un'emotività in più. Alla numero 10, grande, grande, grande classico, soprattutto negli anni 90, che ha vissuto quell'epoca, negli anni 80-90, I Will Love You, Love Is All You. Cosa? I will always love you. Non era difficile. Non era difficile. Ho la tosse. I will always love you. Di Whitney Houston. Che fa? Papapero, non so, non mi sembra. Esatto, I will always love you di Whitney Houston, canzone famosissima con suona il film Bodyguard. Con penso non l'ho aperto perché pensavo che fosse patrimonio di tutti, evidentemente mi sento vecchio in questo momento. Una famosissima canzone di Whitney Houston con degli acuti pazzeschi come lei era capace di fare, che comunque negli anni 90 ha spaccato questa canzone di un melenso assurdo. Però ha funzionato molto. Ah, ma era no, quella col film di con Kevin Costner. Sì, quella oddio, non so neanche. Non era il Titanic. No. Assolutamente no. Ci arriveremo anche là, perché alla numero 9 Serge Gainsbourg Vince Time non più, e alla numero 8 finalmente My Heart Will Go On. Ecco, infatti. Con Celine Dion, che cantava la canzone meglio nota come la canzone del Titanic, perché è giusto in questi momenti che tu devi stare assieme a una ragazza, devi promettere comunque questa lunga vita assieme, le fai pensare al Titanic. c'è un doppio senso mostruoso, tra l'altro. Sì, un film che racconta che racconta l'attaccare di una donna attaccata a un gioiello inestimabile, anche questo vuol dire qualcosa. Questi americani hanno sempre un insegnamento da darci. Sicuramente il gioiello sarà stato francese o fatto in Francia, questo magari non era ancora spiegato. Alla numero 7, altro grande colonna sonora di film degli anni che furono, Unchained Melody dei Righteous Brothers, meglio nota come la canzone di Ghost, con Patrick Swayze e Demi Moore con capelli corti dei tempi che furono. Ragazzi, canzone non mielosa, però comunque era molto strappalacrime per le ragazze di quei tempi. Molto molto importante. Alla numero 6, la canzone che tutti, o per meglio dire molti, del popolo di Spotify scelgono per i loro incontri a due, è questa, Marvin Gaye con Let's Get Go On. E c'è l'atmosfera. E c'è il sound. Me lo stai dicendo? La stai toccando? Io e tu per lei. No, ragazzi, è più tutto bene, andrà bene, è tutto tranquillo. Sei bravo. Guarda Andreina, guarda così. Così cazzo. È più così. Andiamo avanti. Questa ci sta, perfetta. Io approvo questa scelta. No? È più una canzone che tipo che sembra. Me la segno. Prima di fare l'amore, tipo sguardi sul letto. Esatto. Che sono queste parole? Fare l'amore. Fare l'amore. Scopare. Ragazzi, non facciamo cose che possono sembrare. Bisogna essere bravi. Esatto, seguite l'esempio di Andreina. Quindi tu dici a quel momento di raccoglimento pre. Sì, prima di un rapporto pre-sesso. Quando ancora sei là a dirle staremo sempre assieme. Sai, tipo quei momenti come magari abbiamo già visto tipo nei film, nei cartoni animati, tipo che so, tu entri in camera e ti trovi la tua donna già sul letto col vestito da notte e parte sta canzone e comincia tipo a muoversi. Che io non li vedo. Che film? Non parliamo di film che poi luci rosse, ma andare film a ballare. E poco tempo dopo si vede che c'è il tizio chiuso nell'armadio. Ecco, una cosa. Mio marito. Cielo, mio marito. Quindi tu dici questa scena di lui che entra in camera, che donna, tipo quella, questa tipo tipica cavallona americana sdraiata sul letto, cavallo, per dire, questa donna giunonica, bella sul letto, pronta, e tu parti con questa canzone molto. perché giustamente non, riesco a prendere non penso che apprezzerebbe. Si farebbe qualche grassa risata. Grandi ragazzi, alla posizione successiva, al numero 5, Barry White. Barry White qui inteso in ogni cosa di Barry White, perché ricordiamo lui aveva questa voce così particolare, così calda, così profusa, eccetera, che comunque ispira questo senso di cosa. Ma sinceramente Barry White è un cantante che ho ascoltato già da bambino, però quindi già questo tipo di musica mi sa più da tipo, sai quando due coppie già iniziano a litigare magari e poi tipo fanno la pace, c'è cioè, sta cazzo di canzone da, tipo, ma si mettiamo per riguardo, dai. Sì, capito, tipo, cominciano a abbracciarsi e tutto, e, vabbè, c'era questa storia. Ma lui perché ancora non fa il regista di film rock? Perché praticamente te l'avevo chiesto te di fare praticamente la parte della donna, ma essendo che tu ma ragazzi, sei lamentato sull'ultimo attore che voleva lavorare con te. Vabbè, quindi, ragazzi, comunque andiamo avanti senza se mi dovete mettere un attore, no, mettete uno bello. Sì. Metto un po' che vuoi. Quando si attaccano alla fine. Quindi comunque all'interno di questo film, diciamo così, di queste scene, tu dici dopo un momento di concitazione, spariamoci Barry White, cioè, con la sua voce perfetta, quest'idea di Sazan, che può piacere molto, e stare assieme. Ragazzi, alla numero 4, grande classico degli anni 80, una canzone indimenticabile a tutti i livelli, veramente. Qua andiamo su un caposaldo della canzone dei momenti a due, ed è questa. Colonna sonora di Top Gun, Berlin, Take My Breath Away. Bom bom bom bom. Ma sentite, famosissima a dir poco, con Kelly McGillis in forma straordinaria, di una bellezza unica in quel film. E penso questa colonna sonora è rimasta veramente nel cuore di tutti. Tra l'altro il film conteneva alcune scene anche importanti da questo punto di vista, sia lei che lui, Tom Cruise, erano nel massimo della forma, quindi comunque rimasero come una coppia simbolo di un rapporto a due anche abbastanza squilibrato, diciamo così, squilibrato. E quindi rimane ancora oggi un caposaldo. Ma ragazzi, alla numero 3, a proposito di classici, qua, io direi che qua c'è un colpo di scena, secondo me, perché questo qua è veramente un classico, e trovarlo qui apre moltissimi punti interrogativi, perché la canzone al numero 3 è il Bolero di Ravel, che adesso partirà. Tu sei là, più avanti, più avanti, ancora, e ancora, e ancora. Mi sa di inizio di quei film con i cani, no? Tutto super intelligente, zoom sulla casa, con i bambini che giocano nel giardino e il cane che fa qualcosa di stupido, che poi si scopre che in realtà era tutta una macchina. Esatto. Più avanti è forse più iconico, no? Ecco. Esatto, qui si scopre che il cane sa giocare a basket. Attenzione. Siamo in livello superiore. Qua c'è già la toccatina, c'è già la il bacetto sul collo. Il bacetto sul collo del cane. Nell'incontro a due, ovviamente. Ti giuro che mi senti ai fatti. Non so di Free Willy sto. Dai, non c'entra un cazzo. Sì, ragazzi, eppure alla numero 3, alla numero 3, quando la gente vuole stare a due, nel senso di rapporto a due, sceglie il Bolero di Ravel, forse per questo ritmo continuo, incessante, quindi questa idea dell'andare sempre avanti, vabbè, no. ti giuro, su quello che ci guardiamo in Irbad, ti faccio vedere che c'è questa canzone, sicuro. va bene, andiamo avanti con una canzone che non può non stupire a tal proposito di La Cura, il tema di questa puntata, Sexual Healing con Marvin Gaye, che è un classico. Sentita 2000 volte questa canzone. No. Come no? Magari da piccolo. Ma sicuramente era una canzone famosissima dove lui comunque inneggiava così a questa cura. Tra negli anni un po' particolari, perché gli anni 80 era un po' cupido dal punto di vista, però al numero 2 c'è ancora questa rivincita degli anni 80. Al numero 1, ragazzi, alla numero 1, quando tu sei in quella circostanza, quando hai un dialogo a due, una complicità appassionata eccetera, la canzone più ascoltata in quel momento nel mondo, quindi da Shanghai a Pechino, da Gallico a Shanghai a Gallico da Reggio a Messina, da Gallico a Scilla, la canzone più ascoltata è la colonna sonora di Dirty Dancing. Quindi tu stai là, Dirty Dancing, quindi. Che poi prende anche un po' corpo dopo. Che poi prende anche un po' il corpo dopo. Che poi prende anche un po' il corpo dopo. La riconosce adesso. Sì, adesso sì. Quanto è bella questa canzone. Questa è già per la coppia affiatata, no? E la coppia, qua non c'è neanche grande carnalità, è proprio il momento in cui stai dicendo all'altro. Cosa mancava in questa playlist, secondo il mio parere? Vai, ora ditemi i vostri. Una delle canzoni più famose di altri tempi, I Was Made for Love You and the Kiss. Mm-hmm. I was made che comunque sia in una situazione di coppia. Quando dici magari, ma che so, stai con la ragazza e non, è da molto tempo che non hai magari un rapporto come stabile, come, e dici, ma sì, che cazzo, ma fa fare, ti ci butti, capito, nella situazione, nel senso, ok, che, ti esprimi con tutto te stesso, ma non con le parole, ma con i gesti nei confronti della tua ragazza, comunque sia come canzone, tipo, fa esplodere la cosa, capito? Quindi diciamo quell'amore un po' malato, diciamo così. Sì, una cosa forte, tipo una cosa un po' pazza, capito? Uh-huh. Anche sì, oppure anche rapporti sessuali, capito? Quella canzone ci sta tutto, capito? Ci stanno limonate, ci quella stanno... lingua assurda. Cioè, ecco, ci sta una bella cosa come canzone. Una canzone per quei momenti. Io sono tutto particolare, ma la mia canzone, la mia canzone ufficiale per le cose, la canzone dei Puffi, no? Delle papere. A Paradox with Flies, The Darkest Hour, che nessuno conosce assolutamente, però è ha una ritmatura che è troppo, quindi ti piace perché è incalzante, diciamo. Sì. Quindi giustamente una canzone d'amore che ti ricorda il passato, Andreina. Tu non eri, non ne so io. Dei tempi che furono, non ne ricordi, tipo, quello che potrebbe... Renato Zero. Io quando ho trovato mio marito è quella di Riderà, tu farla ridere. E come si chiama quel cantante? Little Tony, grandissimo, è morto, è scomparso da neanche non tanto. L'ho trovato. Pensa tu, vedi, e lei giustamente, quindi lei giustamente, un momento molto sognante, romantico, eccetera, ridera, pensatevo, Altra versione io gli aggiungerei, parlami d'amore Mario di Tino Rossi, che bella quella canzone, voglio dire, ragazzi, canzoni d'altri tempi. C'è da chiedere qualche punto, qual è la tua cura per i momenti a due? Qual è la tua cura musicale, ovviamente, per i momenti a due? La tua colonna sonora, scrivila, commenta questa puntata, visita il back.it, anche la cura per la tosse me la può consigliare, il back.it per seguire tutte le puntate, e c'è anche il back.it anche per prenotarti e far parte delle prossime puntate assieme. Ragazzi, noi ci facciamo un grandissimo applauso perché questa settimana... La Genere Regini ti saluta e torniamo settimana prossima con la Genere Regini terza stagione. Ciao! Terza stagione. Stop.